Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 31 marzo, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, alla conduzione di questo programma ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore, e qui con me ci sono Ignazio De Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e a tutte e a tutti. Sempre da Montesole, e invece Samad Bannak, ospite per tutta la settimana con noi, buongiorno. Buongiorno, salamu alaikum, salamu a tutti e a tutti. Allora, oggi parliamo di teatro, e il teatro sappiamo è fondamentale tra le attività trattamentali e rieducative anche all'interno del carcere, perché non vuol dire solo arte, passione, convivialità, ma vuol dire anche, soprattutto all'interno delle mura carcerarie, rieducazione. Carlo Imparato, che è il vicepresidente dell'Associazione Culturale Teatro Necessario Onlus, dice che si chiamano teatro necessario proprio perché ritengono che il teatro sia necessario a tutti, e forse un po' di più per chi vive in una condizione difficile come appunto il carcere. E da anni hanno avviato lui e sua moglie nella casa circondariale maschile di Genova un laboratorio di teatro che si prefigge per l'appunto l'uso dello strumento teatrale come terapeutico, e nascono 15 anni fa come compagnia stabile, ma la cosa veramente sorprendente è che nel 2012 hanno fondato un vero e proprio teatro fisico all'interno del carcere, ma aperto anche alla città, così che i cittadini possono andare a vedere gli spettacoli teatrali dentro. E la cosa sorprendente di questo teatro, che si chiama Teatro dell'Arca, è il primo teatro in Europa edificato all'interno di un carcere. In gran parte i detenuti stessi fanno tutto, dalle scenografie al trucco, alla cura di tutti degli spettacoli, nel senso vero e proprio della stesura dei programmi, e sono veramente bravissimi. È un progetto economico e anche educativo diretto dai detenuti stessi, dicevo, e nel corso di questi anni, pensate voi, sono cresciuti talmente tanto che hanno partecipato all'Italia's Got Talent, che è uno show televisivo, e penso, non so se hanno anche vinto, me ne devo accertare. Comunque, complimenti, bravissimi. Do la parola a te, Ignazio, invece, parlando di Marocco e di donne. Sì, oggi siamo in Marocco con un articolo dal giornale L'Opinione di Amine Ater, che tratta un argomento interessante, tratta di quella zona di confine, diciamo, che tra Marocco e Spagna, che è nel Marocco stesso, quelle città molto conosciute di Melille, in cui è stata costruita questa la barriera lunga molti chilometri, alta 3 metri, per evitare, ecco, i tentativi di espatrio illegale. Abbiamo visto negli anni passati, ci sono stati anche dei drammi, delle persone che sono morte. Ma all'interno di questa storia, di questo dramma, c'è un altro dramma a me era sconosciuto fino a quando ho letto l'articolo di Amine, che parla delle donne mulo, donne il bagla, cioè quelle donne che si prestano sui posti di confine per portare dei carichi. Adesso vediamo se il nostro tecnico Matteo Parisino può farvi vedere qualche immagine di queste donne mulo, che sono delle cose, dei quintali sulla schiena, e io personalmente devo dire in Palestina le ho viste portare le donne sulla testa dei carichi spaventosi, usate anche per il contrabbando, perché in mezzo a questi grandi bagagli sulla testa poi si mettevano magari dei prodotti che erano interdetti dallo Stato, ma facevano un lavoro per pochi soldi e con un costo fisico tremendo. Ora cosa succede? Grazie al Covid, ogni tanto anche si dice grazie a un dramma come il Covid, tutto questo mercato è andato in crisi in questi mesi. E allora ci sono stati dei tentativi, pare coronati da successo, per dare un lavoro a centinaia di queste donne mulo, le chiama proprio così, che non sono affatto dei muli, sono delle persone umane, sono delle donne, occupandole in fabbriche tessili. Quindi un primo passo positivo nella regolamentazione del dare un lavoro onorevole a delle persone che l'hanno veramente sgobbato per tutta la vita. Grazie Ignazio, e interrompiamo la prima pausa di oggi con la musica. Sì, è in qualche modo è collegato, perché il canta Saad Lamjared, che penso Samad conosca bene, un cantante marocchino, un altro cantante pop, che ci fa sentire questo misto di musica araba, suoni del Nord Africa insieme dell'Europa, conosciuto come per tanti pezzi, Salina Salina e Malhabibi, eccetera, eccetera, e canta questo pezzo Entel Moallem. Non mi piace molto perché dice tu sei il boss, tutta la canzone va avanti dicendo tu sei il boss, quindi hai ragione, devo fare quello che dici tu, eccetera, eccetera. Allora io direi tra il boss e le donne mulo mettiamoci in mezzo il sindacato. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم ما ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة انت عبارة خلي لا كل حيارة واللي خلك ما يفهم يجي يوم ده باين دم Rieccoci, bentornati su Di Veri Dentro, sulle note di Saad Lamjared, con questo titolo di questa canzone, Tu sei il boss. E riprendiamo però con un argomento decisamente più accogliente. Stiamo parlando di Galateo Arabo, la nostra rubrica, e con te Ignazio stiamo parlando di ospitalità. Io ti faccio una domanda. Perché è importante pregare per la persona accolta? Dire questo, che è importante, e questo, in questo l'Islam ci aiuta, indipendentemente se abbiamo o non abbiamo una fede, per dare solennità all'atto del cibo. Ieri abbiamo visto che chi se ne va, è stato ospitato, l'ultima cosa che fa è prega per il padrone di casa, ma viene anche il contrario. Sentite che bello cosa dice il Galateo Arabo, lo facciamo sentire nella sua lingua. Doa o Deif, liman stadafahu, bada al farag min ta'am. E quindi si fa una benedizione sull'ospite. E allora noi siamo abituati così, ci troviamo insieme al bar, mangiamo insieme una pizza, no? Quando si poteva fare, torneremo a farlo. Beh, ciao ragazzi, me ne vado, finita così, no? Va benissimo, ci vediamo domani. Ma il senso in quel momento della preghiera, per chi crede, o comunque una parola solenne, è un senso che abbiamo fatto, noi abbiamo mangiato insieme. La condivisione del cibo è sempre un atto molto solenne e la preghiera serve a dare solennità a questo momento. Non è solo riempire la pancia, ma anche un'unione dei cuori tra noi. Grazie Ignazio, e allora mi riallaccio proprio su questo con te Samad invece. Si stava parlando della condivisione del cibo con l'ospite, però c'è nel carcere la condivisione di un'altra cosa molto particolare, che è lo studio. I detenuti condividono la scuola molto spesso, allora io chiedo a te quanto è importante lo studio, l'attività proprio di studiare all'interno del carcere. E se hai qualcosa, qualche aneddoto anche su di te da raccontare su questo. Sì, questo qua come argomento si potrebbe attaccare dall'altro ieri, del lunedì, che abbiamo parlato proprio della libertà e quindi anche proprio dell'argomento di ieri, no? Sulla tossicodipendenza, e quindi lo studio potrebbe essere quell'anello, quella parte che potrebbe, no, aiutare verso sia una libertà ma anche verso, no, la liberazione di certe forme di tossicodipendenza. Io, per me è stato molto importante lo studio, l'ho sempre detto e l'ho ribadito, no? Verso una mia libertà dal carcere, insomma, anche psicologica. Per me studiare dentro, aprire un libro, si è trasformato in un'invasione, no? Dal carcere. Questo grazie a un personaggio che non c'è più, per Cesare Bori, che è stato proprio il primo a incentivarmi, anche ad iscrivermi a scuola, no? E poi fino a prendere il diploma di maturità, e anche a Cristina, che poi mi ha aiutato tantissimo durante questo percorso. E grazie a lui ho scoperto l'evasione proprio dal carcere. Aprire un libro, condividere un libro, cioè dentro era evadere, rimaneva solo il corpo, ma mentre la mente viaggiava, no? Con quel libro, Dostoevskij o quello che si leggeva, tu andavi, no? E quindi la gente passava, vedeva quel corpo esteso con un libro, ma la mente, l'anima e lo spirito andava completamente fuori da quelle mura, poi ritornava, ahimè, però ogni volta che tu vuoi puoi evadere, prendere questa evasione dal carcere. Quindi è molto importante non solo come forma di evasione dentro, ma anche una forma che potrebbe essere sia di opportunità fuori, ma anche opportunità di ragionamento. Quindi non solo, anche se non si trasforma, no? Che ti può dare gli strumenti per lavorare, no? Il titolo di studio che tu prenderai e così via, ma sarà uno strumento che ti farà ragionare, che ti aiuterà, che ti guiderà nella vita di prendere un percorso, magari anche con i figli o così. Vedrai le cose diversamente. Una volta che proprio ti aggrappino alle istruzioni, alla lettura in generale o alla cultura in generale, le cose inizi a vederle con certi occhi diversi. Magari sono gli stessi, però li vedi molto diversamente. Ma Vedi il tu bicchiere sei mezzo pieno. molto umile perché non l'hai detto fino ad ora, lo dico io, 2 anni fa, perché c'ero partecipato alla tua laurea in giurisprudenza e tu non solo hai concluso gli studi all'interno del carcere, ma ti sei addirittura, hai intrapreso uno tra i corsi più difficili tra quelli universitari italiani. Com'è stato? Sì, è stato grazie a una serie di persone, come dicevo, sempre il fatto di uno su 1.000 ce la fai, quindi sono stato fortunato sia per avermi iscritto a scuola, quindi la scuola dentro il carcere, lo dobbiamo dire sempre, non è per tutti, i posti sono molto limitati, non vorrei sapere adesso con il Covid com'è, quindi hanno interrotto, immagino, completamente, grazie solo a voi come Edo Radio che continuavate a trasmettere lezioni e così via, ma penso che purtroppo, ahimè, si è interrotto e quindi i posti non erano per tutti. Grazie a una serie di persone che mi hanno aiutato e affiancato durante il percorso di studi, sono riuscito a prendere questo titolo di laurea, ma più che il titolo in sé per sé, proprio questo percorso di istruzione, di cultura, insomma, e di aprirsi mentalmente a certe tematiche. Grazie Samad, e domani vedremo dove questo percorso di studio ti ha portato oggi. Ma il brano ora tocca a te lanciarlo. Sì. Lancerò questo brano che a me piace tantissimo di George Wassouf, che canta una canzone di Umm Kulthum, che è proprio una donna del Kaukab Sharq, come si dice. Quindi buon ascolto e a domani. Perfetto, a domani con voi e fra poco, dopo il brano musicale, con l'ospite della settimana. Grazie. نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع حباك ما بعيش بعيد عنك بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك ماليش غير الدموع حباك عايش بعيد عنك غلبني الشوق Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro Edu Radio. Siamo con la nostra formatrice esperta di lingue straniere, gestione del tempo, transcultura, tra cui anche il dialogo interreligioso e la ricerca spirituale. Sto parlando di Rosanna Sirignano. Eccoti di nuovo con noi. Ciao. Ciao, grazie. E con te stiamo facendo veramente un approfondimento su, abbiamo iniziato da che cosa significhi Islam, la parola Islam, e poi siamo passati a elencare i 5 pilastri che sono gli obblighi, lo ricordiamo, fondamentali previsti dalla legge religiosa islamica, la Sharia, per ogni credente musulmano. Quindi abbiamo visto la testimonianza di fede, la shahada, la preghiera, la salat, l'elemosina legale, l'ultima volta la zakat, e oggi, non lo so pronunciare, ma aiuterai tu, il digiuno rituale nel mese di Ramadan. Quindi ce lo illustri, ci dici come si pronuncia, perché per me è troppo difficile, e ci illustri come nasce tradizionalmente anche questo precetto, ecco. Sì, ebbene, la parola digiuno, ecco, in arabo si può dire in due modi, sia siam che saum, e vogliono dire appunto la stessa cosa. E nel Corano si fa menzione del digiuno, in realtà menzionando una storia che va prima dell'Islam, cioè la storia di Maria, di Mariam, madre di Gesù, a cui Dio comanda di digiunare in preparazione del suo ingresso in società dopo aver dato alla luce Gesù. In quel caso però si trattava di un digiuno della parola, perché il digiuno, ecco, è un'astensione in generale, quindi un digiuno di silenzio, di cui appunto esistono anche tracce prima dell'Islam. Il digiuno del mese di Ramadan invece è una prescrizione coranica. Ci sono diversi versetti che riguardano proprio questo mese, ne leggerò uno, quello della Sura numero 2, versetto 185. Dunque, il Corano recita: il mese di Ramadan è il tempo nel quale è disceso il Corano, guida per le genti, segno evidente di retta conduzione e discernimento tra bene e male. Quindi il mese di Ramadan è così importante perché, secondo la tradizione islamica, è in questo mese che il profeta ha ricevuto la rivelazione. Ed è per questo che questo mese, che dura 30 giorni, è dedicato ad una pratica spirituale che in qualche modo ci isola e ci riporta ad una profonda meditazione e ad una profonda connessione con la nostra spiritualità. Certo, certo. E anche qui io trovo i parallelismi con la tradizione invece cristiana della Quaresima, che è un altro mese dove è previsto sempre il digiuno, cioè l'astensione da certi cibi, non il digiuno come è previsto nella tradizione islamica dal tramonto all'alba, dall'alba al tramonto, ma un digiuno da certi cibi e in un giorno particolare che è il venerdì. Ma la domanda che volevo farti, e in particolare, è che sono previste delle eccezioni, cioè non tutti sono obbligati, perché è un obbligo, è vero, rituale, però non per tutti. Sì, chiariamo prima, ecco, qual è il significato della parola obbligo, che noi siamo abituati a sentire in un altro contesto. Dal punto di vista religioso possiamo spiegarla in questo modo: cioè obbligo è quella pratica che è necessaria per tenere in piedi la fede, che è necessaria per purificarsi, ma non è da intendere come qualcosa di oppressivo, qualcosa da fare a tutti i costi, perché l'Islam è una religione che rispetta moltissimo la materialità dell'essere umano e che non vuole gravare sull'essere umano ma agevolare il cammino. Ecco perché dal digiuno sono assolutamente escluse le persone che hanno delle malattie e che quindi non godono di ottima salute. Faccio un riferimento alla mia esperienza personale: io prima di digiunare faccio sempre un controllo, perché in passato mi è capitato di avere dei problemi di salute per cui non ho potuto digiunare. Le persone in gravidanza, chi deve allattare, e tutte, ecco, quelle categorie di persone che digiunando comprometterebbero la loro salute. E sono ovviamente escluse anche le persone che hanno dei forti e dei gravi problemi psicologici, perché, ecco, il digiuno è un obbligo che ricade solo sulle persone che sono perfettamente in salute, in grado di farlo. Grazie per questo chiarimento. Ritorniamo con te sullo stesso argomento dopo la musica, che lanci tu. Sì, lancio November di Max Richter. Ascoltiamolo. Thank you. rieccoci sempre con Rosanna sulle note musicali di Max Richter, November. E stiamo parlando del digiuno rituale nel mese di Ramadan, che è uno dei cinque pilastri dell'Islam. E la domanda che mi viene naturale farti è allora come funziona questo digiuno, perché immagino, l'hai detto anche tu prima, non è soltanto astensione dai cibi. Esatto, il digiuno non è solo astensione dal cibo, dalle bevande, dai rapporti sessuali durante l'arco della giornata che va dalle prime ore dell'alba fino al tramonto, ma è anche astensione dalla rabbia, astensione dalle cattive abitudini, che possono essere anche abitudini verbali. Si cerca di non parlare in modo scurrile, non ascoltare delle bestemmie o delle parole aggressive, e quindi è un modo per rifugiarsi nella propria fede, e il fatto di purificare anche il corpo e di stare in questa condizione di digiuno, che non è la stessa cosa, non è proprio fame, è proprio una cosa diversa, permette anche, ecco, di connettersi con la propria spiritualità attraverso altri canali, e ci rende anche molto vicini alle persone povere e sofferenti, provando comunque questa difficoltà nel corpo. Certo, e siccome prima hai accennato, hai parlato giustamente di che cosa significhi l'obbligo, che non è qualcosa di oppressivo, e abbiamo parlato di quelle che sono le eccezioni, ora, siccome tra i nostri ascoltatori c'è anche chi ci ascolta dalle camere detentive, ci tengo veramente a ricordarlo: chi sa di avere un quadro clinico, salutare di un certo tipo, della propria salute personale, si deve veramente fare attenzione a se stesso, tutelare se stesso, nonostante il periodo di Ramadan, che ricordiamo sarà dal 12 aprile al 12 maggio, quindi c'è tempo per arrivarci, ma serve anche un'introspezione personale molto importante per non mettersi a rischio, vero Rosanna? Sì, io voglio essere ulteriormente chiara su questo punto. Digiunare, se non si hanno le condizioni di salute, diventa addirittura vietato. Cioè, in realtà diventa obbligatorio non digiunare se questo compromette la salute, perché la preservazione del corpo è la prima cosa, il rispetto per il proprio corpo è la prima cosa, perché d'altronde il corpo ce l'ha donato Dio. Se non si è in grado di digiunare, si può comunque recuperare, altrimenti ad esempio pagando il corrispettivo di un pranzo al giorno, uno per ogni giorno di digiuno, se questo ce lo possiamo permettere. Altrimenti ci sono tutta una serie di cose che comunque si possono fare durante questo mese, confidando ovviamente nella misericordia di Dio, che accetta ogni sforzo che il credente fa. Grazie Rosanna, ci rivediamo la prossima volta a questo punto col quinto pilastro, e ci salutiamo, siccome ci siamo detti che c'è tempo per arrivare al mese di Ramadan, e allora vi dedico una canzone, C'è tempo di Ivano Fossati. Grazie, alla prossima, ciao. Grazie. Dicono che c'è un tempo per seminare, e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte, e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire, e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate, e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove, e da un anno non torno Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce. Tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi. Ben ritrovati dopo le parole della nostra esperta formatrice di cultura e fede islamica, Rosanna Sirignano. Noi ci salutiamo, ci ridiamo appuntamento a oggi pomeriggio con i laboratori di Eduradio, con l'equipe sanitaria del carcere a cura di Agnese Drusiani. E vi ricordo di iscriverci, l'indirizzo postale è sempre liberidentro.duradio@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna, dove accoglieremo veramente con gioia tutte le vostre lettere, i vostri suggerimenti, le vostre canzoni, le vostre critiche, anche per posta o via email. E ringrazio tutta la redazione, il nostro ospite della settimana Samad, il nostro Ignazio De Francesco e anche il nostro tecnico Matteo Parisini. E noi ci rivediamo domani, ore 9 su Radio Città Fujiko, ore 10.30 su Teletricolore. Ciao a tutti, buona giornata.